chiamata EUHF, quindi vediamo se funziona la trasmissione. Se funziona la trasmissione con 1,90 da Brickman a voglia venne. Non si faccia la portante così ti vede dentro la televisione, Antonio. Guarda che davvero mi... adesso non mi ricordo dove in quarantena l'avevo visto. C'era scritto le stazionali 1 e 1. E cambia, detto, cazzo, come l'ho fatto a sapere le stazionali 1 e 1? Vuol dire che l'ho trovata in trasmissione l'antenna, perché se no non è possibile. Se funziona, fammi sapere, così attacco quella del palazzo centralizzata io. E già provo stasera, qualcosa, col PMR, vediamo se funziona, provo la X300 e ci metto quella, tanto il UHF, se va bene per il PMR, che esce bene e riceve bene, cazzo a voglia, c'è pure per i pulci. Antonio, ma le antenne TV vanno dai 4,70 in su, non è risonante? E qual è il problema? Noi siamo 4,46. Appunto, 4,46, 4,70 è molto più in alto, il centro banda sarà molto più su e rischi bruciare i finali, boh, vabbè. Dai, scappo, vi devo lasciare. Ciao Gianfranco, Claudio, Natalino c'è l'ascolto, Antonio Riserva c'è l'ascolto. Pomponio, dai, ciao a tutti, a dopo forse. Ciao. Guarda che c'è quella squadra di pesce che parte da 100 e passa megahertz fino a 500 arriva, quanto mi ricordo io. Quella che c'è lo spinottino, che costa 9,90. Quindi quella a voglia che risuona. Il problema è che lavora in cortocircuito, cioè in pratica c'è una parte che fa la massa e l'altra parte fa il positivo. Tu prova Antonio, a tutti i dì quello che dico agli altri, prova sempre, tu prova. Ehi, ti credi che se funziona bene con la sfera del pesce, ma la comprami cazzo una VU. Piatto quella, ce n'è anche per i pulci, ce n'è. No, è bella quella che ho fatto a Lucca io, quella dell'Ecco. Quella sì, funziona bene, quella ce l'ho monobanda, però è UHF. Alla grande, quella funziona veramente molto bene. L'ho provato io, ce l'avevo uguale, una V e una U. L'avevo messo sopra il sistema, con un rotore facevo per le bande laterali. Con quella invece l'avevo lasciata. Ne funziona molto bene, ne ho provato a Lucca, arriva a fondo scala pieno, in ogni posto la magia, sempre a fondo scala arriva qua. Va bene Antonio, dai, mi do una sciacquattina, già ci sentiamo dopo, sono qua intanto in radio, non devo andare da nessuna parte, ok? A dopo, grappa. Ehi, a dopo, dai, saluto, a dopo. Io, detto acceso qua, anche il PPR. D'accordo. Ora, la cipolla, pronto, c'è nessuno? Pronto, pianeta terra, chiamo pianeta mare, c'è nessuno? Lascia la birra, Antonio, lascia la birra e ti fa male. Ah, zitta, la ganna di mescia, te la birra. Se vado va la bella giù che c'è di la sorella di Tiziana che è più buona di te. Ma va con di la barra la sorella di Tiziana, va. Cazzo da un culo, andate all'aeroporto in Vertiglia, che è buona comunque, meglio le nuda che tu vestito a maschera, cazzo, Halloween. Vai. Non è la mia tipa, a parte il fatto che è una ragazzina, quindi. Per te già va bene. Tu sei maniaco. Io non sono maniaco, sono manico sessuale. Manico c'hai tu. Manico della scopa c'hai, te chiudi la club. Sicuro. Io l'ho vista stamattina, sono passato lì, non preoccupare. Gappa. Va bene. Già sono qua. E sto facendo... due ritocchi, sto tirando una radiolina per se esce più forte. D'accordo, non c'è problema. Ehi, va bene, cappa. Oh, gay, o gay. Questa già va bene, no? Il microfono va bene questo. Ora, ok, va bene. L'altro giorno c'era un 757D e un cento, e un coso. Un sapere me che stavano dando. Sapere me che ne volevo 150 euro. Delle 757D, no, anzi no, 757 GX2, non mi ricordo quant'era, su Facebook stavano vendendo, stavano vendendo a palate al naso, stavano vendendo. Ho avuto 757, una cagata, nemmeno, non mi piace, mi piace anche il tempo, viaggiano di più, viaggiano. Ok, dai, dammi due minuti, comunque sono qua in ascolto, io adesso fra le 10, c'è problema, che chiudo questo microfono. Ehi, fai pure, fai pure, intanto io sono qua a casa, sto sistemando la cameretta. Guarda, Antonio, è molto sciatto la modulazione. No. Davvero? Ora. Questo è il baracchino Cogio Lepex. Ho messo questo microfono molto saturo, io mi sento saturo. No, non sei saturo, sta tranquillo. C'è un effetto appena appena metallico. E io, beh, giusto per mettere la funzione, dai, non fa niente. Sento quasi 100 watt sta dando. Io non sei contento. No, il cassetto l'ho sistemato adesso, c'è un passo contatto, l'ho messo apposta, a me non intanto se ne scendeva, se ne aveva fatto il culo, se ne andava. Adesso funziona benissimo, funziona. Ehi, ehi, già va bene, già va bene. No, non è che è molto... Ascolta, e se invece la metto così, il tono così, meno metallico, sì, così meno metallico. Allora avevo sbagliato il tono. Allora lascio stare così, dai. È un'amplificazione, c'è? Ah, voglia che c'è. Gappa, gappa, gappa. E a mettere. Io lo posso tirare ancora di più, dai. Non c'è problema. Ah, se così già va bene, non c'è problema. Già esci forte, a voglia. Ok, vediamo un po'. Così, ora, ora, così sono 2 watt e mezzo e 15 di picco, 1,3,4. Ah, va bene. Ascolta, invece, allora, invece se cambio posizione, così sicuramente saturo, guarda. Così saturo, ora, ora, ora, ora, ora, ora. No, da me no. Non è saturo neanche così? No, niente. Allora di uscire, allora già va bene, lo possiamo usare. E voglia. Sì, va bene, va bene. Poi abbiamo appena appena di per amplificazione più, guarda. Opa, opa, opa, opa. Così, non va bene così l'amplificazione. A voglia che va bene, perfetta. Guarda, detto da te, sono troppo contento. Hai? Ti copio. Perfetto, perfetto. Chiaro. Senza troppa amplificazione, capisco benissimo, non c'è problema per quello. Ehi, ehi, ehi, perché questa radio non c'ha mica gain, capito? Mentre invece se lo metto nell'altra è molto più amplificata. Lo so, infatti. Quindi praticamente sta lavorando solo il microfono, capito? Invece se lo metto nell'altra radio, che c'è il Mickey Gain, nell'Inuit, nel DAC, negli altri che ho, allora è molto più forte, per quello ti ho detto, lo metto appena appena, ecco qua, adesso ce l'ho a 6, ce l'ho dato. Va bene, anche se la passeggio va benissimo. Io ho un barattino di scorta così, giusto per farlo andare, niente di particolare. L'importante è che vada. Ha voglia che va, voglia. Gappa, gappa, gappa. Coccuomane non c'è. Ha detto Coccuomane, Platinette, non ci sei. Platinette. È sparito. Non c'è Platinette. Dai, metti a posto la stampa, già sono qua io. trasmissione, sapere se funzionava questo microfono, non è che l'ho fatto lei. Gli ho invertito le connessioni. Va bene, ok, d'accordo. Metti a posto la stanza, già sono qua io, non c'è problema. Andave. Buonasera Claudio, buonasera. Ciao Otto, buonasera. Sto provando un microfono, come va? Un pochettino nasino lo sento, come mai? Quanto mi ha fatto abbassare i toni. Guarda se così è meno nasino. Adesso un pochettino meglio, vai. Guarda a vedere, 1, 2, 3, 4, 5, non ne avevi più 5, ma... Anch'io mi sento, non è che mi piace molto la modulazione. Adesso ha migliorato però. Migliorato? Sì, quando hai toccato quella cosa ha migliorato. Prima eri gna, non ti conoscevo nemmeno. Ti conosco perché sei Claudio, se no non era bella. Ci avevo i toni a 2, adesso li ho messi a 1. Capa, prova a alzare un po' di più. Alzare cosa? La amplificazione? E i toni. Così sono a uno, così sono a 2, così sono a 3, guarda. A 3 già va meglio. A 3 va meglio. Capa, però non ho capito perché c'è un po' strano come microfono. Un po' strano come microfono, e cosa c'è di stranezza, può farmi capire, non so. Ma ti stai ascoltando? Io sempre mi ascolto con le cuffie, non è che... Mi ascolto per capire se c'è qualche problema, vediamo un pochino se il problema è qua. Ora, 1, 2, 3, 4, vediamo, così meglio va. Leggermente meglio. Però aumenta l'amplificazione un po', vedi cosa succede. Amplificazione non ce n'è, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, così a metà. No, diminuisci. È originale che c'è un microfono. Aspetta, tanto che le sto parlando un attimo a mia figlia. Lo rimetto com'era, lo rimetto così a 8, già va bene a 7, eh. Lascialo così. Non volevo capire questi toni, allora così vediamo un pochino. Secondo me sono al contrario. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5. Così è un po'. Sogna brutto. Già va bene, però c'è sempre qualcosa di strano in questo MB più 5. Ma è originale o è stata cambiata la capsula? No, è originale, tutto originale. Originale, esita in WWW, dopo mi dica la capsula, va, perché non lo so neanche che capsula c'è. Ora, eccola qua. €70. No, questo 50 euro assolutamente. Non ne ho visto uno sul mercatino che lo stavano vendendo. Oh. Yeah. Prova. Vediamo un pochino se questa è meglio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, via un conto. Quindi ho messo un'altra. 1, 2, 3, 4, via un po'. Ma è sempre un attesi a me. Perché la cassa non ho niente. È la cassa di questi microfoni che non serve, capito? Vediamo un pochino così. Adesso lasciando una resistenza, vediamo un po', 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ora, così meglio va. Prova a parlare. Guarda, a vedere, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, non mi piace il microfono, sarà, ma non ci credo, ora, 1, 2, 3, 4, 5, vediamo così un pochino, 2 e mezzo, così a 2 e mezzo, così lo mettiamo a 2, vediamo se va meglio così. Già va un pochettino meglio, già migliora, però c'è sempre un po' così. E vabbè, meglio di nulla, non ce la vuoi fare. Vabbè, meglio di niente, lasciamo andare così allora. Oh, 1, 2, 3, 4, prova. Perché non c'è la Mickey Game, capito? Va. Ah, è bomba. No, dico di altro, deve essere forte il segnale. Ti sta arrivando un bel forte di segnale? Sì. Ehi, già va, 10 watt, c'ha 10 watt, 10 watt. Se sono dei buone cose abbinati uscivano bene, certi apparecchi, non è che uscissero male. Cosa vuoi fare? Cosa vuoi fare? Nunca. Adesso ne trovo un altro di microfono, ma qua sì, che ne trovo un altro, che sembra meglio di questo. A so che no, che io ya. Aspetta che lo prendo per vedere se va meglio di questa cagata. Va prova. Vediamo un pochino, allora questo è un altro microfono, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, vedi un po' Anto se questo va meglio? Va meglio sì. Questo va meglio, no? Questo è il Thunder più 3, questo è il Thunder più 3, l'altro invece era l'MB più 5, vai. Questo va meglio quindi. C'è una sobianetta e ho clac. Una sobianetta no, 1, 2, 3, 4, ecco mettiamolo così, perché ce l'avevo troppo alto, eccolo qua. Questa è una sobianetta no? Lo so. Quindi cosa dici, lasciamo questo qua, in questa radio? Papà, lascia quello, che va bene quello il microfono. Ma cos'è quello, l'MB più 3B o cos'è? O Super CD, che cos'è? No, questo è il Thunder più 3, non è né B e né C, Thunder più 3 è V. L'altro invece era un MB più 5, capito? Per quello che è diverso, che cambia, KK. Allora, intanto facciamo una modifica qua, 1, 2, 3, 4, ecco qua, e 5, eccolo qua, allora, ecco. Eccolo qua, guarda quanto è bella adesso, vedi? Adesso va bene, cazzarola. Io devo avere così. Magari però va bene un'altra radio, niente di strano. Magari lo provi su un superstar e cambia tutto. No, ma sicuramente va bene con altri tipi di radio, con questa non va bene, capito? C'è anche bei picchi di modulazione, dai. Ora, 1, 2, 3, 4, 5, prova radio, prova, già va bene, già va bene, già va bene. amici. Hai visto, abbiamo trovato la soluzione, tu dai. Abbiamo trovato subito una soluzione. Basta provare, basta fare. E K. No, ma sicuramente non va bene, non è perché sia, magari non è perché faccia cagare il microfono, magari è proprio, non va bene per quella radio, punto. Ma infatti non va bene, non va bene, non per questa radio, te l'ho detto, perché questa radio non ha, aspetta, sto girando il potenziometro, era un dombo fermo, perché questa radio non c'ha, come si dice, non ha Mickey Gay, capito? Non ha Mickey Gay, non ha niente, c'ha le bande laterali, e la AM, USB, LSB, e niente, e basta. E lo squelce il volume, non c'ha Mickey Gay, capito? Ed è per quello forse che non spinge, se no questo è un bel microfono. Sì, sì, lo so. Vabbè, già va bene, dai. Il DAC spento ce l'hai. Io il DAC ce l'ho spento. Aspetta, stavo provando così. Ora. L'unica cosa che c'ha questa radio è la regolazione dei watt, vedi, così sono, non sto saturando così sono al massimo dei watt, tanto sta saturando, sta. Assolutamente no. Allora già va bene, dai. Così sono al massimo dei watt, invece così sono al minimo dei watt, dai. Va bene, KK. Sì, è spento il DAC, è spento. Anche perché adesso non lo posso usare, sto usando il microfono del DAC qua, infatti. Questo è il microfono del DAC. Bisogna che te ne buschi un altro di microfono. Gianni, ho dentro l'armadio un po' di microfono. Naggio a bizzeffa, tutti da tavolo. Bisogna cambiare tutto, invertire tutte le connessioni, capito? Bisogna invertire le connessioni. Lo fai, te lo metti uno lì, perché va bene, cavolo. Pure io bisogna che mi riattrezzi, cazzo. Ci ha venduto tutto. E ora dove va? Vabbè, ci ha venduto tutto. Vuol dire che lo voleva fare, se no l'avrebbe fatto, giusto? Vabbè, ma poteva lasciare qualcosa a me di più. Vabbè, cosa vuoi va? Abbiamo diviso, poteva lasciare qualcosa a me. E invece ha voluto fare così, cosa devo va? Sì, vabbè, tu dai. Oramai è andata così, cosa ti ne affutti? È andata così, già va bene, non c'è problema, tanto. Cosa stai lì a piangere, a fare, a futtidini? Ascolta, così invece, togliendo tutti i cosi, i toni, va bene lo stesso o andava meglio prima, tu? Mi pare che non sento nessuna differenza. Quindi da questo passaggio così a questo passaggio così non senti differenza, grazie di una gaggata. E così sei più forte, sei più forte, sì. Così è ancora più forte. Ora, 1, 2, 3, 4, no, non mi sento bene io così. Così mi piace la modulazione, guarda, con questa timbrica così. Forse è l'unica, così dovrebbe andare bene. Ma non ti sentirei bene tu. Però a me mi piace di più quando eri più forte. Oh, così, quindi così, messo in questa maniera, a scherreggia, proprio a scherreggiare tutto intorno. No, all'altra maniera, prova l'altra. In questa maniera così, ora, 1, 2, 3, prova. Che fate troppo casino? No, meglio l'altra, dai. Se te l'ho detto, fa troppo casino, dai, mettiamola così che già va bene. Opa, già va bene così. Lasciamola stare così, dai, che sennò poi qualcuno si incazza, dice che è troppo forte la radio, capito? Vabbè, ma a me da un resi mi sento e dall'altro mi zesci, cambio. Scappa. Il tuo maracchino di un canale, l'altro poco, Ha un ghetto di un canale, lo sai che ti sento? Con questo baracchino mi senti? Baracchino che sto utilizzando io, non è l'AL, non è l'Intec, è questo qua. E l'altro, l'Alfa Yeti Zeus. Di un canale ti sento, però se vado più su non ti sento più. Beh, anch'io Antonello, quando si sposta di splatter già lo sento. Se poi uso, per dire, se uso il DAC non lo sento. Questo manco a misericordia, l'Airbex, che poco è molto selettiva questa radio. Se invece accendo l'Inuit, cazzo è un casino. L'Inuit è una cosa allucinante, proprio una cosa allucinante. È peggio del coso, come si chiama? Dell'AN 48, cazzo. Ma comunque mi sono accorto di una cosa, dal latte dolce a qua passa una grandissima differenza, passa. Già lo credo, Antonio, passa una differenza. È normale che ci sia differenza, Antonio, è normale, più che normale, perché di là era una cosa diversa, magari eri più coperto, capito? Invece qua sei più aperto e tutto, capito? Quindi se c'hai più ricezione c'hai più tutto. È un greviato, da un roccio di cobro di un metro, un'antenna da 5 metri, passa una bella differenza. Infatti, la differenza è proprio lì, capito? Appa. Perché là sì, andavo finalmente troppo bene. Però qua è un'altra cosa, adesso mi sto uscendo con 4 watt normali dall'apparecchio, sto uscendo. Già va bene, là devo spingere un po' di più per riuscire a avere dei risultati. Però cavolo, con l'antenna sul tetto così è tutto un altro pianeta, sento tutti, riesco a comunicare molto di più. È un'altra cosa, dai. Si conferma, è proprio così. Vabbè, ma intanto siamo 4 gatti, l'importante è che ci sentiamo e che tutto proceda bene, voi usate una futtiglia, va bene. Va bene, sì. Mi piace perché lo sto riusando questo DM1000, era fermo da tanto tempo. Era fermo, adesso lo sto riutilizzando. Stiamo piccando, Aspetta, rispondo al telefono un secondo solo, un secondo. Già. Hola. Hola. 1, 2, 3, prova. Hola. 1, 2, 3, prova. Andava in uscita, normale. Arrivo al tuo aspetto. Zacra. Arrivo subito. Sì, ok. Minchia, aspetta. Ecco, guarda la differenza, tu, guarda. Aspetta che lo passo al tuo. Questo è il DAC con lo stesso microfono di prima, tu. Pompa, Ed è freddo, è molto molto freddo. E infatti vatti non mi sta dando adesso, e quanto siamo? Siamo a 5 watt siamo, guarda quanto pompa, guarda. Vabbè, ma non sei basso di segnale comunque, già va bene. Adesso qua ci sono i LED, ma non sei basso. Mica, santo, ma sto ascoltando la radio, capito? Sto ascoltando la radio, è una cosa impressionante. C'è un abisso completamente da quell'altra, perché questo è il suo microfono. È il suo microfono e... capito, e va, qua se mi avvicino, va, ora, leva, e sono in cuffia, c'è un abisso proprio, guarda, 1, 2, 3, 4, 5, 6, che asciuga, devo abbassarlo, no, non mi piace, devo sollevarlo, eccolo qua. E me l'ho sparato, E attendi su una 5 watt, ma adesso sta aumentando man mano che scaldano le valvole. Dovrebbe salire leggermente, dai. Dovrebbe salire leggermente, vediamo, power, eccolo qua, il power, 3 watt sta dando, neanche, 4 watt, dai, 4 watt, ora, ecco, così sta dando di più, la mazza che tiene varia, ma guarda tu, cazzo, va. Allora, così è 3 watt, invece così è la potenza massima. Vediamo un pochino, ecco qua, ecco. Così è la potenza massima della radio, Antu. Ora, 1, 2, 3, 4, 5, è cambiato la modulazione. Sì, me l'ho sparato qua, me. Non ha cambiato niente, no? 1, 2, 3, 4, cazzo sto usando, riesci a vedere? Ah, ecco, c'avevo l'NB inserito, ma va a fanculo che... Ai, ok, va bene, dai. Quindi così è al top, già va bene, allora così. Aspetta che la passo leggermente, ecco qua. Però io in cuffie noto la differenza da questo passaggio a quest'altro passaggio. Io noto una differenza allucinante. Tu non la noti? Ed è vero già. Vero, è vero, cra. Io la noto in tu. Io la noto da questo passaggio a quest'altro passaggio, io noto differenza. Non so perché. Allora, questo deve andare tutto in giù. 1, 2, 3, 4. Questo deve andare in su. Questo deve andare in su. E questo deve andare in su. La mazza che tiene varia, guarda. Con tutti questi cazzo di tasti che c'ha questo coso, non capisco come mai. Deve essere che c'ha delle modifiche, qualcosa, cosa ne so io. Sicuramente sì. Perché è un bel forte. Pompa un bel. Eugenio di Porto Torres, cambio, ascolti lo Sparviero qua nelle alture di Carbonati, Roger. Buonasera Eugenio, buonasera Antonio Bombolo da Sassari. Che si dice? Non si dice niente, no? Siamo qua, siamo qua, perché non mi ascolti bene il radio? Mi sentirai il basso di segnale, ma la radio già sta pompando. Ehi, no, beh, questa è una radio valvolare, oggi l'ho accesa poco fa, ancora non sta andando. Ora, 1, 2, 3, 4, 3, 7, ma devo avere qualche modifica, io qua non ho capito, vediamo un po'. Qua c'è qualche modifica sicuramente, perché da questo passaggio a questo passaggio cambia, da questo passaggio a quest'altro passaggio cambia, così cambia ancora. Cazzo, non ho compreso io com'è la situazione. Vabbè, comunque lasciamo stare così, dai. Così dovrebbe andare bene, no? Tu? Va benissimo, va. Cappa, non ho mai sentito Eugenio, salve, ma lo sei in barra mobile, sì. E cappa, non è che mi arrivi fortissimo, ma già ti copio lo stesso qui, da QTH di Sassari. Cappa. Eugenio, ma io baracchino, che baracchini ti posso dare? Io baracchini non ne ho, Eugenio, proprio zero sopra zero, capito? Sai che io baracchini non li uso, io ho radio grandi e baracchini sono tutti base, non ne ho baracchini piccoli, capito, oggi. Ehi, ti conviene chiedere a Marco a vedere se c'ha qualcosa a lui da proporti, non lo so, qualcuno a Gianni, quelli che usano baracchini, capito, io non ne ho. Io baracchini proprio non ne ho. C'ho sì dei baracconi, ma baracchini no. Vai, Anto. E capa, cosa mi stavi dicendo, Cra? Hai zitta che devo passare un po' di roba qua. Ho detto che a Eugenio le serve un baracchino. L'ha già detto, io baracchini non agio, faccio baracconi. No, io di meno. Io ci ho visti due e basta. E me dovrò prendere qualche cos'altro. Mi dovrò prendere. Capo, oggi non ti posso manco aiutare io. Non ti posso aiutare. Ma a posto d'ora arrivo a Romanco. Sì. Ehi, oggi. Va bene, dai, sta arrivando al porto, Antonio, in zona Lombra. C'è qualcuno che sta chiamando Claudio, chi è che mi chiama? Avanti. Ehi, a chi è? Ciao, Monserrato, la Battaglia, buonasera, ben ascoltato. Compagnia di Antonio Bombolo, la Sassari, Monserrato. Cazzo, tornato con 5 watt, anche con 5 watt mi ascolti. Ehi. Va bene, dai, che cambio radio, commuto all'altra che avevo prima. Antonio, senti a Monserrato, la Battaglia. Sento un sibilo, sento, ma non mi arriva, non so se arrivo a passata. Attenzione, senti qua il bombo della Sassa di Cappa. Buonasera, l'hai sentito il bombo? No, non ti sente, Matto. Neanche io, non l'ho copia veramente, quella zona ce l'ho proprio coperta, ce l'ho. Quella zona ce l'hai coperta, tu non sei dietro l'angolo. A parte che se ce l'hai coperta perché sei molto in basso, ma non è dietro l'angolo, patata, ecco. Cosa? Sì, trasferito oggi. Oggi, ce la risentiamo. Sentiamo. Genio, ce la risentiamo, ciao. Buonasera, aspetta che cambio radio. Un attimino, tanto che passo con l'altra radio, dai. Questa adesso la spengo di nuovo. Ci ho rimesso sul microfono, volevo provare se andava, se era tutto a posto, dai. Ok, capo. Avanti chi fischia. Eccoci qua, siamo passati col mitico KDK. Allora, com'è la situazione? Non c'era. Non ho capito, ma stai arrivando basso stasera. Come mai? Dalle gas. Considerando che io per la posizione che ho, non è Monserrato, mi arriva a Santiago 8. Quindi c'è molta difficoltà, portata non è dietro l'angolo, poi devi superare un po' di montagna, capito? Io sono proprio negativo, però torno se già arrivo, ma Monserrato non mi cricio. No, Monserrato no, lui si chiama Monserrato, ma è Pattada. Ho capito, Pattada non arrivo io. Magari ci abita se la dovevi a Milano, sì. Cazzo, allora se non vuoi venire proprio vicino a me. Pronto? Vicino a te, può essere, chi lo sa, un indomani. Allora. No, se mi trasferisco in campagna ti lascio l'antenna e anche l'appartamento, bene va. Radio non ti dirà, Gubbaro, Chi lo sa, tutto è possibile. Lascio che mi sveglia domani mattina e decido di comprare la tua casa, come adesso. Va bene, Anto. Io l'ho detto, se compro un CB le lascio le antenne, le radio no, però una ne le posso lasciare, va? Una ne le posso lasciare, però le antenne già le lascio, devo fare solo attaccare l'antenna e basta, capito? Se invece non è un CB, allora me devo togliere tutto. Lo so. La bestiolina mi basterebbe. Ma le radio non le devi regalare a me? Come? Le radio, non hai detto che le regalavi a me? Ma te, c'è un testamento già pronto. A te ti intendi, Robadrono, c'è un testamento già pronto. Ci ho fatto il testamento, in vita, capito? Tutto quello che c'è qua dentro, compresa la porta e la chiave, è tutto di Massimiliano Bulldozer. Ah, hai fatto il testamento? Certo che sì, ho fatto il testamento, tutto. Chi è questo che fa soffiando, soffia che la balla è anche a me. Aspetta che abbasso il volume al PMR. E tutto il Massimiliano Bordozzere, capito? Bene, bene. Cosa devi fare? Così è. Si è arrivato in ritardo, si è sparito, sai. Quindi io ho i miei sudditi. Antonio mi si è comprato la casa e le lascio l'antenna. Che già un buon passo. Ma glielo ho preso, a questa altezza, tutto l'impianto pronto. Non deve fare altro, deve attaccare il baracchino. Non è buccia di gioco. Monserrat, perdonami, ma sto parlando qua in locale, non ti sentono loro, non ti sentono e non ci arrivano. È un genio, uno che c'ha un camper e si fa un baracchino, perché tu c'hai qualche baracchino da vendere? Il 48 secondo me è migliore per la macchina, per il camper, per queste cose, capito? Va bene. Provo a chiederglielo dopo, quando lo sento glielo chiedo, magari ti faccio sapere. Avanti Antonio Bombolo. Che capa, volevo fare un attimino di bianco, cla. Già ci sentiamo tra un pochino, che mi hanno chiamato un attimino. Io avevo sentito, vai Antonio Riserva, buonasera, ben ascoltato. Hai trovato quello che mi hai chiesto? No, non hai chiesto a nessuno. No, Cla, buonasera, ben ascoltato. No, volevo solo sapere nel caso, no, trovandone qualcuno usato, cioè magari potete spiegare una macchina rispetto a un altro, un modello rispetto a un altro. No, ho chiesto questa fretta. No, perché io quella roba lì, per capirci noi due, non ne uso. Ce l'avevo inizialmente per la macchina, poi l'avevo tolta, quindi non mi sono più occupato. Quindi non so consigliarti specificatamente esattamente cosa ci può essere in commercio. Magari vedo, può sapere più fino, ecco, vedi, magari chiede a lui che ha contatto con le persone lì, riesce magari a darti un'idea migliore di quella che ti posso dare io. Capito? Non ho proprio idea, niente, perché io ho i gemellini della Icom VU e poi ho il 780 VU sempre base, tutti base, e basta, l'820H che l'ho fatto. Ho fatto un cambio con un'altra radio che mi serviva di scorta, capito? Perché ne ho troppe di quelle radio lì, sono tutti base, non li uso, sono sempre spento alla fine. Infatti l'820H ha avuto un problema che non capisco che cosa sia, proprio non usandolo, tenendolo lì fermo. Vabbè. Dipendi. No, niente, era perché già lo sai, questo da Michel, no? Quindi fa la U. Chi è con l'eco? Avanti. Ma tu lo senti questo prova 1, 2, 3? No, assolutamente. Come lo so? No, c'è la disperata, cosa ne so? Io non sento niente in tutto. Cazzo, qui in campagna disperata. E poi giù è. Va bene che un Alan 48, ma fai ignorare buona. No, ma tranquillo che se un Alan 48 6 milioni di colpi da cacchia d'uno, a futtidini. Tranquillo, se non è Antonio che sta provando, o qualcuno. Perché guarda, io stavo parlando un giorno, l'ho acceso, sempre dentro l'armadio mio. Non lo vendo perché ce l'ho in concessione. Stavo parlando, addirittura sentivo i camionisti che stavano scendendo da Prague. Fatelo conto, dunque. Non l'hai sentito adesso col video? Questa è propagazione, però. No, non quella propagazione. Ce n'era uno più alto. No, non l'ho sentito. Avanti chi vuole entrare. Forse hai ragione tu, cazzo, come niente in coi. Parecchi. Davvero, ma stia alla 48, ma tanta. Bisogna che ne porto giù qualche altro della radio, qualche altro apparecchietto. Perché questo subito non mi va di nulla. Tutto, ma se c'hai come radio simile a questa, ma perché non la usi, cazzo? Perché non la usi? Ma io ne ho tante, cazzo. Io ne ho un garage pieno di tutte queste cose, ma non la giù mai in gara. Adesso mi ho messo avanti ieri, la settimana scorsa, e io insomma sono contento, ho fatto dei lavori, ho messo il palo, l'hanno sono curato, ho messo le zampe, ho fatto insomma un lavoro a regola d'arte, adesso metterò una segna così chiuso per parlare, per fare quattro chiacchiere. Grazie, magari vi voglio dire ciu ciu. Questo ne arriva a 4 a me. Se arriva a 4, non te fiuti 4 arriva a me. Mi pare sia 7-8 qua. Io praticamente ho la mano per sentare radiali. Un radiale solo già, e puoi chiamare pure. Sì, ma il radiale ce ne vuoi, ce ne ho io, No, ho il piantone rotto qua. Cioè il piantone rotto, tutto spaccato, lo mettiamo sulla tappa dei radiali, l'hanno data così, nella segna di provato. Ma Bucanina col fine ma aspetta, era tutto gribato. Quel piantone bisogna tenerli sempre, sempre efficienti, perché se si rompono non si trovano, poi bisogna modificare, fare per mettere il coso, capito, i radiali. Ma con la vola avrei fatto tranquillamente, ma sarebbe stato un problema, che non ce n'è più. Lo hanno veramente chiusi, tu pensa che hanno rotto anche il petto dove c'è il piede di un sondaggio di campo con un commettore al volo. Figurati tu, proprio andato alla grande, vai. Vabbè, ma se funziona, il segnale ce l'hai, sei Santiago Nuovo, già va bene. Sì, no, per quello non mi interessa, certo, non la metto sul tetto a casa, su a sasso, la fa un sacco di casino, ma qui, nel terrazzo, quando ho messo dentro la bici, mi devono pensare fino a rampo. E allora, così mi dico una cicca. Oh, io mio. Ma è un po' di olive. Prova, oh. Eccomi, Anto. Vado a prendere una cicca. Stavo pensando anche addirittura a prendere uno di quelli quattro bande da 62, quelli della Cina. E anche in Maru, Guarda che funzionano bene. Non so, guarda, ho visto uno che non porta molto, ho visto che stiamo andando indietro. Però non mi comprendo una mappa, i bottoni, tonissimi. No, ma capisco, non ne ho mai avuto quelle date. È una tronzata. Poi c'è un affare al tuo alcuni toni, subettoni e sottotoni. Tanto non fai un cane. Anche quello è vero. Sì, questo qui praticamente costa così, a quel prezzo lì, completo di cappetto per la programmazione. Che poi intanto neanche di programmare una massa me ne può fregare, perché uso quelle due frequenze, quei due canali e basta. Sì, mai fatti, guarda. Fottidini, prendi qualcosa di semplice. Io te l'avrei dato, Antonio, ce l'ho uno dentro l'armadio, ma non funziona, in UHF non esce, un veicolare, è un 701 della Tempo del paese, in UHF non esce, capito, in VC. Però lo tengo di scorta perché proprio per le VHF c'ha i toni, capito? Siccome le frequenze e i toni principali sono in VHF, lo tengo di scorta, sono approvato. No, ma solo per quel canale lì, già lo sai. Allora per quel canale lì prendi uno di quelli, cosa? Tanto non vedi voi, né tono, né subettono, né nulla. Giusto poi per fare un po' di ascolto, tutti che hanno, tutti che ho visto hanno cinesi, hanno anche delle frequenze in ascolto su un canale di un'auto. Sì, è come quello che ho io, che va da 118 in V, da 118 a 180, 175, una cosa del genere. E in V va da 300 sino a 480, una cosa del genere. No, questo qui ha dei salti, va, vabbè, le radio spenti, la faccia da 80, no, da 200 a 3 qualche cosa, qui fa da 420 a 480, qui fa da 130 a 160, a 180, qui fa da 400, da 220 a 3 spiccioli, qui fa 430 a 480. Vabbè, chi è che vuole entrare? Ho dato io un colpo importante, sono rientrato. Gappa, riprendi Anto. Gappa. Stavo ascoltando, ma perché ero giù, ero. Stavo facendo roba nel piano giù. Biglietti coipi, cosa? Ma Antonio Riserva, come mai? Non sarà qualcuno nel canale vicino sicuramente. E ce l'aveva 48, ma lì c'è più coipi. Ma poi a questo mi hanno tolto il filtro adesso, mi hanno bucato tutto per far uscire un vaso di più e ci siete sei fatti. Lo senti Antonio Riserva? Sì, sì, sì, sì, lo sento bene. Sì, pensavo che stavo dicendo. Un po' carino tutto canto. No, ma ce l'hanno difficile quegli apparecchi, ce l'hanno. Di pigliacoipe. Sì, adesso vanno scendo il 3009, se la piglia è luce. Figlio, se l'hai fatto, tu ce li hai le radio buone. Non è 48 per la macchina, va bene, ma per casa no. Oh, io ce l'ho e no. Non manco un attacco, per carità. Esce bene, mi. Col panne più 3, con le MB più 5, esce bene. Ma sento tutta la mondezza, capite? Sento tutta la mondezza. Mi pare di biglie, sono molte cose, perché comunque molte volte sto anche un mese, due mesi che non ci scendo e lasciare troppo a Roma, io lo sai, può capitare qualsiasi cosa. Anche se ci sono telecamere, di dati, però il ladro se ne studia tutte. No, lasciare campagna, lui non faccio niente io. Non si lascia niente in campagna, non lo so. Ti portano a casa e ti portano via la radio. Ci sembrano buttati tutti i suoi ribiati, ma le radio non si bloccano. Comunque lo sai che qua sono entrati tempo fa l'anno scorso. Ci hanno parlato via il gruppo elettrogeno, sono cose da radio, c'era il coso, il montato, l'alimentatore, il multimode 3 con la scheda di 45 metri, non hanno giocato, un roll, metri, non hanno toccato più. E se ci fosse stato il 440 avresti visto che ce l'avevamo fatto via. Ma secondo me non ne comprendia né nulla. Ti stanno bucciando tutta la cara di Rufrizzer. Bah, lasciamo perdere. Gente ignorante, ecco già, tossici giovani, sono tossici. Gente che va così, vabbè. Avanti, bombo. Ragazzo, non ne comprende nulla di questa roba, non ne smerciano. Più che altro di ne furare altro, di ne furare. È difficile, solo chissà, po, se no non lo toccare. Una fucilata l'ha piacuto. E cosa ci puoi fare? Allora era così, ce l'avevo da poco e quindi non mi sono preoccupato. Adesso la mia internet, le telecamere, ce l'hanno pure. Però allora era così e io, cioè, ho preso e l'ho portato queste cose. Chi ci pensava mai? Carità. Bisogna stare attenti, molto attenti bisogna stare. Beh, lasciamo io, ma sei cazzo. Ah, fanculo. Mi sentite lo stesso, sì? E a voce bisogna attaccare niente. Se 9:10, cosa lo dobbiamo fare? Lascia stare così, già va bene. Tu mi senti? Certamente. E allora già va bene, dai. L'ho spento. L'ho spento poco fa perché ero a Porto Torres, quindi mi occorreva un pochettino più di potenza per farmi sentire da Eugenio, perché lui era in barra mobile, quindi. Ma chissà se adesso ci chiuderanno dentro a casa, normalmente sono sta giusta. No, non credo. Ci saranno restrizioni molto, molto dure. Molto dure, soprattutto la sera, penso. Proprio come sembramenti, però non penso che ci chiudano, non so. Forse anche che ci vorrebbe altri, dove so che ti dica intanto. Siamo arrivati alla frutta oramai. E com'è che siamo in guerra ad ora? Ma davvero, io sembra proprio, veramente, io vorrei immagini quando c'era la guerra, quando c'erano altre malattie tipo la peste, ma noi siamo peggio. Io vuol dire che se la gente non ha capito nulla, è un casino. Evidentemente ne abbiamo approfittato, dico ne abbiamo in generale, evidentemente ne abbiamo approfittato, non abbiamo seguito le direttive e siamo caduti nuovamente nella merda. Vai, bombola. Io che vi credi assai di queste cose, è un bel strana la cosa. C'è un qualcosa che non va su questa situazione qua. Beh. No, vabbè, quello di Covid c'è, perché c'è, Black? Avanti. Buonasera, qua Gianni da Trippa. Ui. Gianni, ben ascoltato. Ciao Antu, vabbè, mi ascolti, sì. Altro l'ho piazzata, com'è? Stazione varia, si arriva in di voce. Com'è stazionaria? Boh, lo so, non lo so. Che c'è a parte? Tu dove sei andato in campagna? Campagna? Sì, vabbè, qua, questo dice il telefono, non lo so, sei tra il 7 e l'8. Tu stai arrivando il 5 invece. Ho fatto la boomerang che mi ha dato Antonio in prova. Claudio non c'è. Io ci sono io. Cazzo, Claudio, adesso arrivi bene, Sul più mi arrivi adesso. 9.5 sì, qua, non si scherza. 9.5 abbondante sì, va bene, radio perfetta. Aspetta un attimino, provo le stazionarie, dai. Da prima ci può una famiglia da qui, aspetta che provo le stazionarie. Ecco. Avanti Massimiliano, buonasera anche a te. Papà, ciao Claudio, non so se mi ascolti bene. Benissimo, perché? No, non lo so, segnale uguale? No, segnale molto basso, 9. Cazzo, mi sono due. Non sale? No. E quando schiacci la portante, metti in posizione power. Dove sta segnando? Sul 0. Minchia, cazzo. Minchia. Ok, va, ti sposti un attimo sul 15 qua. No, vai al 20, siamo troppo vicini. Un attimino che arrivo subito. K, che c'è qua? E io ci sono. Oh. Quanto? Ma tu la senti questa propagazione? Ogni tanto sì. Capito, il capo, non lo so, io come ti arrivo lì? Sto uscendo con 4 watt adesso, sono normale. 5, e questo qui mi arriva, questo con l'eco mi arriva a 7. Beh, vediamo se fa 0 dopo. Io pensavo prima, faccio il flutter. Invece no, c'è proprio questo qui con l'eco. Va come ti è? C'è per un dopo, guardi. No, adesso non lo sento più perché ti sei più alto. Più è alto. Siamo abbastanza sbagliati da lì, se non è qua in zona. Per la valgia e la lampadata sono parati prima a pigliare colpi da giasse. E capa. Capo, adesso Luca si che arriva a voce. Una tagumba, Ma dov'è? Alla Feroce? È Pisa. Oh, ma scusate. Quanti? Ma la sede stazionale dovevo toccare qualcosa? Non lo fare. Quella parte di giù del radialino. Adesso devo tingare il vostro. O lo infili o lo togli fuori. Ah? O lo infili o lo infili dentro o lo levi fuori, in base a come si abbassa. Vai lu. Devi spiccare poco a poco la ghiera. Lo provi, prima lo infili tutto in dentro, lo controlli. Se sono alte, piano piano lo togli fuori. Carera, ma fa che te ne varia, cazzi. Questo con l'eco che ti ho detto, Vai, fa bravo, di Gregory Peck. Ti prendo, ti ho preso, porca la miseria. C'è quell'affare, c'è, quello stub. Quello è per regolare stazionare, se ti rompe ancora le balle, giri il braccio. E se no pigli la motosega ne segui un pezzo. Ma che bomba la sta usando, la grande o la piccola? Grande, la LEM. La LEM. Che assenza di favoraggio? Perché gli ultimi modelli li hanno fatti sempre più esili. Boh, uno ha detto che siamo favoraggi, ha detto. E vai, pliffo, sgranfiggio. Che ha detto favoraggio? Attenzione Luca! Io, ma a 45 gradi, buon sarà che c'è antenna. C'è calai, favoraggio, tu. Se ti arriva, tu. 7, 8. E uno, favoraggio, ma è sì. No, questo non lo sento, io sento quello con l'eco che è fortissimo. Dove ne uno, 2 ore, favoraggio. Ah, è dromedì. Davvero, ma niente, non sento cosa. Tu non intendi, io già l'intengo già. E avanti, che? Sai che non ho capito. Ti sento il mezzo del QRM, ti sento. Praticamente c'è un vecchio giugato di Francesco che ti fa vedere da sopra. Cazzi, tu. Tanto, magari chi c'è. Non lo sento io questo, non lo sento. Tu non ti arriva a te. Avanti. Sì, qua tra il 7 e l'8. Sì, hai lo stesso segnale di quello con l'eco. Allora, lo dico su WhatsApp. qua mi arrivi in basso, mi arrivi, eh. E tu dove sei? Tu sei un bel basso di segnale, sei. Addirittura sei Santiago 2 qua. Chi è? Oh, Antonio. Sì, dimmi. Dai, ti saluto che sono arrivati degli ospiti. Devo spegnere. Ci sentiamo dopo. Saluta a Luca e a Claudio quando rientro. Oh, comunque l'ho tarata, eh. Ma quando è arrivata? Tanto, siamo alla fondo scala qua. Aspetta. Beh, vabbè, qua uno è... 1.4, 1.5, vanno bene, dai. Sì, capo, adesso si può anche migliorare, volendo. Ehi, ma sagumba. Ok, Anto, dai, ce la risentiamo alle prossimine, ok? Salutami a Cristian. Ehi, ciao, ciao, ciao, Lu. Ciao, Anto, alla prossima. Voi mi ascolti bene, sì? Sì, è lo stesso segnale di Antonio. Ok, la tua bomba che stai usando? No, la manto qua. Ah, ok, va bene, 9 sia tu. Segnale 9, va bene, alla prossima, facciamolo bene. Ciao, ciao. Quella radio c'è un abisso, Lu. Come calano? Aspetta. La scala. Così, 5 watt, sta dando... Oh, mi senti, Antu? Sì, a bomba ti sento. Ma ti sei agganciato, però. Ti saturo, eh. Sì, guarda a vedere che adesso ho sganciato la preda. E adesso arrivi molto molto meglio, sì, quasi su più del più 30. Rammara. Claudio, ci sei? Guardati qua, quando la provi un po' ti accorgerai che è tutta un'altra pianeta. Aspetta un attimo. Bene, si potrebbe fare ancora, eh. Poi se vuoi tirare un altro po' lo stub. Avanti. Ciao Luca, scusate, ero all'ascolto in altre bande. 9P10 abbondante, tra 9.10 e 9.15, eccellente qua. E mi hai migliorato? È abissale, prima eri 7, 8. Ok, da. E ma adesso ho troppo lo stub, poco a poco, perché c'ho 1.5 di stazionari, da 1.4. Ma tu sei là, vero? Non sei a casa? Sei l'altro QTH? Sì, sono là. Aspetta un attimo. Allora, aspetta, allora, vediamo un po'. Questo è così, ok. Aspetta. 1.4. Di lusso, Luca, di lusso, dai. Ripasso là, ciao, ciao a tutti. Io come sono con 3 watt utili? Che io provo l'altro e ti guardo il segnale, attacco l'altro apparecchio, quello là è più preciso. Questo qua è a LED. Luca, Luca. Vabbè, ciao ciao ciao. Hola, hola, hola. Che chiama? Chi sei, cuoco? Sì. Già ti sento, chi sei? Cesco. Non ti ho capito chi sei, però già arrivi, arrivi 7 qua. Ma vai. Cagaiata, cagaiata. Sì. Antu, dimmi. Adesso li ho portati a 1, a 1 e 2, 1 e 3. Una bomba, una bomba. Su capo in nuda. Centrobanda con c'è, com'è? Tu comunque qua sei un bel porta, adesso ti stavo misurando. Com'hai fatto il passaggio? Minchia, cazzo. Qua arrivi quasi a fondo scala. Oh, adesso qua si muove, tu. Oh, perfetta. Ce l'abbiamo fatta. Oh, Antu. Dimmi, fa un passaggio che se mi... Se ti faccio la fotografia per vedere quanto arrivi. Ma fammi un video, pronto, sì, dai. Aspetta, eh. Vai. Vai, vai. Attenzione, Mombolino, se tu ascolti Luca qua. 1, 2, 3, prova radio, prova radio, prova radio. Cambi... Oh, un po' male è uscito questo cacca di luce, però sei sul più, sei una bomba, Luca. La chissà droga io non saggio mai intesi scendi così forte. Ma ce l'abbiamo fatta? Non ho capito. L'abbiamo fatta, Luca. Ma poco a poco si muove. Yuhu! Ce l'abbiamo fatta! Allora va bene! Chissà si attacchi a baracchino forte, chi su anda a me? Quella pompa a me! Fate il break! Ho visto il video, anche tu arrivi bene, guarda, ti faccio un video se vuoi parlare. Kappa. Mi è entrato un amico, è entrato un lupo grigio, non so se tu lo senti, Kappa. Avanti lupo grigio. Kappa, buonasera lupo grigio, da che zona moduli? Lui qua, io qua ti sento benissimo, ti sento, da QTH di Sassari. Kappa, io qua ti sento forte lupo grigio. Sei 925 Radio 5 a Bomboletta. Ma cosa sta uscendo? Con portatilino sta uscendo? Kappa, adesso chiediamo all'amico Luca se lo senti. Luca, lo senti tu? Luca, c'è una roba. Sono contento, cavolo. Kappa, io sono qui in zona... come si dice, zona Corso Vico, dai, sono vicino a te, tu come mi occupi lupo grigio? Kappa, non è che siamo, non siamo molto, molto distanti, non siamo, la modulazione è piena, Kappa, no, qua arrivi abbastanza forte, arrivi fortissimo. Vabbè, io ho l'arringo sul tetto, quindi non ho problemi. Capito. Ma qua non arriva, Kappa, c'è Luca. Luca dice che tu non arrivi lì. Forse perché è negativo, già. C'è Luca da QTH di Santa Maria di Pisa, ok. Avanti Luca! Non lo sento, non so se mi ascolta lui, ciao anche a lui comunque, dai. Lupo grigio, buonasera, avanti. No, si sta parlando anche tu, non lo sento, Lui ha detto che lui non ti sente a te. Vabbè, tanto ti faccio una chiamata un attimo, là, aspetta. Sì, ok, ti contri, cambia, saluti, ti contraccambia. Attimi la radio che faccio, lui, minchia, non mi sono mai sentito così, Kappa, lupo grigio, dai. Ok, ma non è che... Sì, qua da me arrivi forte, ma non sei fortissimo. Aspetta che c'è una chiamata.